Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Signori, sto cercando di guardare al male. Qualcuno laggiù, vi dispiacerebbe spostarvi così posso... Avete capito. Grazie, signori. Molto gentili, vi ringrazio. Grazie. Andiamo, sono l'unico a fare lo sguardo torvo. L'abbiamo provato. Ehi, Ted, tu stai facendo lo sguardo triste. È l'unico che ho. Non ci credo. Ora andiamo. Facciamolo bene. Da capo. Concentrati e azione. Guardiamoci, osserviamoci, posiamo lo sguardo. Voi, quando posate lo sguardo, cosa guardate? Che cosa cattura la vostra attenzione? I tratti fisici, i dettagli, come ad esempio degli accessori, magari un particolare? 800 24 0024. Aspettiamo naturalmente i vostri sguardi. Oppure... invece che guardare un dettaglio, voi puntate dritto agli occhi del vostro interlocutore? Qual è lo sguardo che vi ricordate di più? Quello di vostro marito, del vostro bambino? Quello che avete incrociato entrando in ufficio oggi con il vostro capo ufficio? Per me parte tutto dagli occhi. Deve avere quel tipo di sguardo che sa andare oltre la superficie, dritto dentro l'anima. 20% angelo, 80% diavolo. Diavolo, angelo, voi cosa avvertite quando uno sguardo si posa su di voi? Vi sentite influenzati, condizionati? Quanto? Sino al punto di fare altro? 800 24 0024. Abbiamo postato naturalmente su Facebook queste domande per anticipare la nostra trasmissione alle persone che ringrazio e che ci seguono sempre su Facebook. Massimo ci scrive: un particolare abbigliamento che mette in risalto particolari tratti fisici attira molto il mio sguardo. Quando mi sento osservato divento timido, ma anche curioso al tempo stesso. Valeria: non so mai abbinare i colori, mi scrive. Mentre Cati: quando guardo un programma alla TV osservo arredamento e colore alla parete, piccoli particolari. Probabilmente mi annoia la storia se guardo in insieme, invece preferisce il dettaglio. Veronica ricorda che lo sguardo è una porta d'entrata per l'anima e adora guardare negli occhi. Ma quando guardate voi, come vedete? Ci vedete chiaro? Mettete a fuoco bene i contorni, i colori delle cose? Oppure davanti a voi avete la sensazione di essere un po' confusi, vedere un po' sfocato, quasi una leggera patina? Ne parliamo oggi insieme, naturalmente, a raccogliere i vostri sguardi, i dettagli che catturano i vostri sguardi, insieme al dottor Antonio Scialdoni, che è tornato a trovarci. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei, gli ascoltatori. Responsabile dell'unità operativa oculistica prima al Fate Bene Fratelli di Milano. A proposito di sguardi, lei già da come io la guardo capisce qualcosa di me, della salute della mia vista, è vero? Sì, che ha una buona vista, sicuramente, anche perché ci conosciamo e quindi è già stata esaminata più volte. Comunque, evidentemente, ci sono sguardi diversi, ci sono sguardi di carattere di cui ha parlato finora e ci sono invece caratteristiche di sguardi. Anche sguardi un po' a talora imbarazzanti. Queste sono cose che, secondo me, andrebbero un po', come dire, focalizzate. Pensiamo allo sguardo di quando guardiamo uno strabico. A talora ci sono strabici, per esempio, che guardano alternativamente coi due occhi, non riusciamo a capire con quale ci stiamo guardando e ci imbarazziamo, quindi a cercare di identificare, per esempio. Ma c'è lo sguardo del miope elevato, quello che ha le lenti a contatto, lo sguardo fisso e sembra perso nel vuoto, che sogni. Che uno dice magari gli interessa, no? E magari sono miope con le lenti a contatto. No, sono quelli che sembrano persi dentro se stessi. E poi c'è per esempio lo sguardo della persona anziana con la maculopatia, che è un problema retinico, che per inquadrare, avendo una macchia centrale, per inquadrare un viso guarda leggermente lateralmente. Diciamo, io un po' da oculista lo vedo quasi subito, ma sembra che siano persone che facciano fatica giustamente a camminare, a muoversi eccetera, e non riescono a fissare bene i visi e le espressioni. E quelle che strizzano gli occhi? Quelli che strizzano gli occhi hanno sono le persone che non ci vedono bene, che non ci vogliono bene, mettere gli occhiali, ma fanno finta di vederci bene, oppure hanno anche un po' di congiuntivite, un bruciare agli occhi. Sì, spesso le persone con la blefarite soprattutto. 800 24 00 24, ditemi dove posate lo sguardo e che tipo di sguardo avete, quale sguardo vi emoziona, quale sguardo vi condiziona. Dottor Cialdone, noi abbiamo fatto un giro su alcuni forum per vedere un po' quali sono le domande più ricorrenti a proposito di vista, quando noi posiamo lo sguardo, come vediamo? Naturalmente avvertiamo alcuni segnali, li abbiamo raccolti, andiamo a sentire. I contorni delle immagini a volte sono un po' sbiaditi. Faccio fatica a mettere a fuoco. Dopo molte ore davanti al PC sento che i miei occhi sono molto affaticati, li sento pesanti. Di solito quando guido di sera mi danno fastidio i fari delle macchine. Mi sembra che la mia vista sia calata, ho bisogno di più luce per leggere. In questo periodo ho dovuto cambiare gli occhiali e non riesco ad abituarmi, ma tra quanto tempo mi passerà questa sensazione fastidiosa? Dottor Cialdone, queste sono alcune delle richieste, delle domande che sono più frequenti nei forum. Molte di queste se le sarà sentite anche ripetere lei durante le visite. Sicuramente. Ecco, volevo... Viste o problemi di svista? Questa è la domanda. No, vista. Vista, ho avuto occasione, diciamo l'inverno scorso, di vedere un sacco di persone, anche giovani. E c'è ormai, perché mi dice anche giovane? Perché di solito dall'oculista, beh, di media, certo, si arriva un po' avanti negli, esatto, anni. Invece noi ricordiamo sempre che la vista va controllata, esatto, a tappe. Esatto. E un sacco di giovani, diciamo dopo, prevalentemente dopo i 30 anni. Sì. E a causa dell'uso, una delle frasi che abbiamo sentito è: ho molte ore davanti al PC, sento che i computer, bene o male, i tablet lo stesso, adesso stancano molto gli occhi, perché ormai tutti passano tantissime ore. E questo tipo di applicazione fa venire fuori una quantità molto consistente di piccoli difetti di vista che se facessimo altri lavori non ce ne accorgeremo neanche fino a 50 anni, mentre invece applicando fanno fare fatica agli occhi e hanno bisogno di una correzione. Quali sono gli ipermetropi? Cioè l'ipermetropia non viene rilevata a quell'età se non facendo dei lavori applicativi di ripetutamente un po' di fino, diciamo. Esatto. Quindi non tutto il male viene per nuocere. Beh, diciamo che in questo modo si riesce a correggere facilmente. Dottore, una delle domande riguardava la sensazione di avere poca luce. Entriamo in una stagione in cui le ore, le giornate si accorciano e il rapporto tra i nostri occhi e la luce è un rapporto molto importante, sia fuori che dentro le nostre case, e ci dà anche un'indicazione importante sulla salute della nostra vista. Questo sicuramente. Ovviamente la cosa riguarda soprattutto le persone un pochino più anziane, i giovani difficilmente. Se un giovane ha bisogno di tanta luce per leggere, c'è quasi sicuramente, molto probabilmente, una patologia, un qualcosa che va visto. Sì. Con l'andare degli anni, passando i mitici 50-55, il cristallino e la sensibilità della retina diminuiscono e quindi c'è il bisogno naturale di mettere, di usare più luce, anche perché così le pupille si restringono, si mette a fuoco meglio per vicino. Sono tutti fenomeni normali e naturali, non c'è niente assolutamente di cui stupirsi. Torniamo ai nostri sguardi, non agli sguardi che ci ha descritto il dottor Cialdone come oculista, ma ai messaggi che arrivano di sguardi dei nostri ascoltatori. Luca da Milano ci scrive: delle donne mi affascinano le spalle. Per me i vestiti che mettono in risalto le spalle sono fantastici. Credo che le spalle siano il cuore della femminilità di una donna. Evidentemente Luca è lì che posa lo sguardo. Marin da Padova ci dice che lo sguardo dice tutto e dice molto anche alla ricerca, lo scopriremo nel corso della trasmissione. Mentre Serena, che è innamorata, scrive: lo sguardo più bello, più intenso che ricevo ogni mattina è quella del mio fidanzato, unico. Lo sguardo di una persona è importantissima e a Serena piace molto guardare negli occhi suoi interlocutori. Un ascoltatore anonimo mi racconta che lui guarda le gambe, i piedi e le scarpe. Dottor Cialdone, non aveva che sguardi che per lui. 800 24 00 24, continuiamo a parlare di sguardi e naturalmente di vista, ma proviamo anche un po' a riposare i nostri occhi. Il dottor Cialdone diceva che proprio l'uso, no, di questi continuativo certo, di tablet, PC, fa affiorare anche piccoli disturbi certo, che non sarebbero emersi. Esatto, è abbastanza tipico uscire la sera d'inverno quando non c'è più buio, mettersi alla macchina dopo aver lavorato un'intera giornata in ufficio da vicino a un computer e vedere tutto sfocato, le luci, è l'attenzione continua senza rilassamento della muscolatura interna degli occhi. Allora, noi oggi vogliamo, insieme al prossimo ospite, provare a suggerirvi qualche esercizio per rilassare i vostri occhi. In linea con noi abbiamo il professor Ernesto Di Pietro, tornato a trovarci, osteopata e professore di biomeccanica della colonna vertebrale. Buongiorno. Ma buongiorno a lei Nicoletta, al suo ospite, che è una persona molto competente, ho ascoltato con molta attenzione quello che diceva, e a tutti i suoi ascoltatori, anche con me. Grazie professore, noi vogliamo riposare un po' lo sguardo, sì, e in questo caso le mani ci vengono in aiuto. Ma direi proprio di sì, tra l'altro agganciandomi proprio a quanto diceva prima l'oculista, il suo ospite, quando noi dobbiamo poi accomodare la nostra vista tra la luce e il buio che andiamo ad incontrare, quando guardiamo il computer, la televisione e tutto il resto, abbiamo da mettere a fuoco. Immaginiamo l'obiettivo di una macchina fotografica, quando mettiamo a fuoco qualcosa e cambia il fuoco, lo vediamo andare avanti e indietro. Un po' fa così anche la nostra testa, quindi i nostri occhi, per farli riposare, dal mio punto di vista della biomeccanica, è importantissimo fare riposare tutta la muscolatura che c'è attorno, che ci permette di mettere a fuoco e vedere bene, quegli micro spostamenti del nostro cranio. Quindi, se vogliamo far riposare gli occhi, io darei un suggerimento proprio molto veloce su tre punti su cui massaggiare, dove sentiremo immediatamente il beneficio. E cerco adesso di farveli vedere via radio, visto che parliamo di occhi. Allora, con i nostri pollici, sì, il primo punto è la nostra cervicale, perché è l'asse su cui il nostro, i nostri due piccoli radar, che sono i due occhi, mettono la cervicale, che va in avanti, va indietro, lateralmente, ruota per farci mettere a fuoco. Quindi chiudere gli occhi, rilassarsi e con i due pollici massaggiare in modo rotatorio le vertebre della cervicale, proprio la nostra cervicale. Quando abbiamo fatto questo, andiamo avanti, ci avviciniamo agli occhi e massaggiamo dall'esterno, sì, sempre con i due pollici, il punto d'incontro tra mascella e mandibola, l'articolazione temporomandibolare. Sì, dove chiudiamo. Esatto, massaggiando con movimenti rotatori e tenendo gli occhi chiusi, fino a che sentiamo proprio rilassare quella zona. A questo punto un esercizio più simpatico, che è quello di far diventare gli occhi a mandorla. Sì. Tenendo gli occhi chiusi, con le dita stiriamo verso le tempie, quindi verso i capelli, i nostri occhi. Li stiriamo facendo un ciclo di tre stirate che durano tre secondi. Tre stirate mi piacciono, quindi uno stretching palpebrale. Ma le dirò, fa bene anche a quelle bellissimi segni che abbiamo di sorriso, le rughettine, che si sono di fianco agli occhi. Ecco, fa bene anche a quello. Quindi riposa gli occhi e restituisce, ecco, rallenta un po' l'insorgenza delle zampette da gallina. Non solo, questo modo irroriamo di sangue quella zona. Direi di più, che potrebbe anche ridurre un po' la sintomatologia di bruciore del bordo palpebrale, che è derivata a volte dalla tensione muscolare delle palpebre. E quello in effetti fa bene anche a quello. E poi soprattutto ricordiamoci che, a proposito delle persone che lavorano spesso al PC, di ammiccare, perché l'ammiccamento mette in atto proprio, aiuta, no? È una sorta di protezione, perché esatto, arrivano le lacrime e il nostro occhio è contento. Esatto. Vero? Esatto. Quindi quella sensazione di occhio secco, asciutto, pruriginoso, rosso. Esatto. E soprattutto guardate il PC dall'alto in basso. In che senso? proprio fisicamente. 800 24 0024. Professor Di Pietro, grazie per essere stato con noi. Proveremo i suoi esercizi. Buona giornata. Buona giornata anche a lei. Occhi che sanno parlare, che ti prendono così e ci fanno ragionare sul percorso della vita, sulla nostra storia infinita. Occhi che sanno cercare anche quello che non c'è. Dottor Cialdone, con l'età, lo sappiamo, la nostra vista subisce dei cambiamenti. E anche persone che non hanno mai avuto problemi di vista e accomodavano benissimo si trovano a fare i conti con la presbiopia, che però non è un difetto visivo. Beh, è un difetto refrattivo. Esatto. Allora, che cosa possiamo fare? È vero che si può in qualche modo rallentare, cioè rimandare questo, il problema l'incontro con gli occhiali? Direi che è meglio rimandarlo, perché mentre contro il passare del tempo alla lunga perdiamo certamente, nelle prime fasi soprattutto i pre-presbiti, le persone di 43-45 che cominciano a fare fatica, io consiglio: non usate gli occhiali, cercate di tenere un po' allenato l'accomodazione, quindi di prolungare, di portare in avanti l'uso permanente degli occhiali. Metteteli su solo quando non se ne può più, quindi quando sto lavorando tanto al computer, quando mi leggo un romanzo a casa. Ma finché scrivo due messaggi al cellulare, allo smartphone, e mi do un'occhiata al giornale, via dicendo, cercate di resistere. Dottor Cialdone, sa che quando lei è qui noi proviamo sempre a fare degli autotest per valutare un po' la nostra vista, sottolineando che non sostituiscono naturalmente il caso, va da sé, però diciamolo. Certo. È un modo, dato che noi vogliamo in questa trasmissione renderci un po' protagonisti attivi del nostro benessere e della nostra prevenzione, è una serie di piccoli suggerimenti, di un test che suggeriamo per rendere le persone consapevoli della salute della loro vista, o individuare magari quei piccoli problemi che non avvertiamo proprio perché gli occhi, un po' come succede anche con l'udito, in qualche modo si adattano e noi certo trascuriamo magari dei dettagli che invece individuati. L'attenzione è anche prevenzione in parte. Allora noi siamo pronti per il nostro autotest, cosa facciamo? Beh, certamente gli occhi vanno autotestati uno per volta, perché è molto facile in visione binoculare con tutti e due gli occhi aperti confondere, oppure l'occhio migliore nasconde le magagne dell'occhio peggiore. Potrei focalizzare per esempio su due gruppi di persone che sono sicuramente non maggioritarie, ma vanno messe a fuoco. Sì, a proposito. Uno, le deformazioni delle immagini, cioè sì, se sempre con un occhio per volta guardate lo stipite delle porte che avete di fronte, gli stipiti, la parte verticale. Se ci sono curvature o deflessioni dello stipite e non è diritto, c'è certamente qualcosa che non quadra. Non sappiamo di che cosa si tratta, ma certamente è una cosa che non va bene. E l'altra cosa su cui sempre un occhio alla volta. Un occhio alla volta. L'altra cosa su cui vorrei portare lo sguardo, che stanno aumentando un pochino, non diciamo tanto, non vorrei spargere panico, però un po' di più di una volta, problemi di nervo ottico alle giovani donne. Giovani donne che vedono, cominciano a vedere un po' sfocato con un occhio, con un'alterazione della percezione dei colori. Quindi vedo un'ombra, poi gli vai a testare la vista e apparentemente è normale, ma cerca sono persone che hanno una leggera ombretta da una parte. Siccome questa è una sintomatologia che poi può riguardare anche malattie diciamo cerebrali un po' più impegnative, quando si hanno questi tipi di sintomatologie, cioè con un occhio vedo diverso dall'altro, vedo un colore diverso, vedo una luminosità diversa, non è necessariamente una cosa da trascurare. 800 24 0024. Continuate a scrivermi, potete seguirci come sempre su Facebook e su Twitter, dove posate lo sguardo e aggiungete anche come vedete. Gino, buongiorno, ci chiama da Verona. Benvenuto. Buongiorno Nicoletta, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie Gino, mi fa piacere, mi dica. Niente, volevo chiedere un consiglio al dottore in quanto riguarda la mia vista. Ho fatto parecchie visite, non una, più di una. Il mio problema mio è quello di avere sempre un'abbondante lacrimazione. Addirittura a volte, nonostante porti gli occhiali e nonostante quel bruciore continuo, che poi cosa succede? Dura 10-15 minuti, poi passa, poi si ripresenta con bruciori più intensi, quindi mi devo lavare gli occhi e per poter riuscire a vedere meglio. Certo, perché è molto fastidioso, brucia e lacrima. Meno male Gino che lei non si trucca, perché sennò ci sarebbe un ulteriore problema. Potrebbe essere un motivo di ecco. Più. Allora, che cosa fare? Soprattutto perché Gino racconta un fastidio, un problema che è molto comune, molto diffuso e che spesso non trova le soluzioni adeguate, dottor Scialdone, perché ci sono tanti ascoltatori che mi stanno scrivendo proprio questo problema, l'occhio rosso che lacrima, non si trovano soluzioni. Diciamo, è possibile? L'età del così alla voce sembra giovane. Sembra moderatamente giovane del nostro ascoltatore. Adesso non so quanti anni abbia, ma diciamo i problemi di blefarite, cioè di irritazione cronica del bordo palpebrale e della superficie dell'occhio, stanno diventando molto comuni. Sì. Non c'è spesso, a meno che non ci sia una malattia specifica, a volte sono associati a malattie della pelle, dermatologie, acne rosacea, malattie del collagene, nelle persone più anziane possono essere artrosi, possono essere il Sjögren, ci sono mille malattie. Quindi eccetera. Come si dice, è un disturbo multifattoriale. Multifattoriale, esatto. Una risposta che non ci fa stare assolutamente tranquilli, perché quando voi dite multifattoriale vuol dire che poi prima di trovare la soluzione ce ne vuole. Però dobbiamo versare tante lacrime. No, in questo caso cosa questo possiamo caso, fare? Però sicuramente il consiglio valido per tutti è pulizia del bordo palpebrale, perché ogni qualvolta c'è un'irritazione cronica ci sono crosticine, depositi di batteri ed è un meccanismo che si autoalimenta. Quindi pulizia, acqua tiepida e un cucchiaio di bicarbonato dentro. Voilà. Un leggero sfregamento, il bicarbonato come lava la frutta, lava anche la superficie. E non aggredisce le palpebre. Meglio quello che una serie di prodotti chimici che poi alla fine finiscono per fare quasi peggio. A me gli occhi! Pensavamo con Laura Vanossi che potreste mandarci anche un po' la foto dei vostri occhi, i vostri sguardi. Metteremo naturalmente anche i nostri e andremo in redazione a prendere lo sguardo di alcuni conduttori. Intanto buongiorno a Mario che ci chiama da Firenze. Buongiorno Mario, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a lei, siamo qua. Niente, volevo fare il mio contributo perché anno fa ho cominciato ad avere problemi di accomodamento dalla breve distanza. E un ottico mi ha dato un consiglio, dice, per cercare di prolungare un po' la mancanza di, cioè la non necessità degli occhiali, dice prova a mettere un poster con un panorama dietro al monitor del computer, perché io sto molto davanti al computer, e ogni tanto guardalo, perché dice l'occhio si accomoda come se dovesse guardare lontano e questo fa una specie di ginnastica così sì. per il bulbo oculare. Non so e, se è una cosa e funziona, ma grazie Mario, grazie, perché questo è un modo per far fare ginnastica ai nostri occhi. Sicuramente. Allungare e accorciare. Esatto. Guardando lontano ci si rilassa, come se lui ha trovato il posto perché ha fatto giustamente così il suo posto di lavoro, qualcun altro potrebbe avere una finestra. Io vorrei regalare a Mario, che ci ha regalato questo consiglio, un libro che ho scritto con Paola Reverso e Alberto Pellai, Guida al Benessere, perché mi sembra carino, adesso inizia dicembre e ci siamo sempre tutti sempre di corsa, allora potremmo fare con gli ascoltatori proprio uno scambio di consigli per il benessere. mettere, poi magari li mettiamo anche sul sito. Quindi Mario, che mi ha suggerito un po' quest'idea, Mario ancora in linea, si troverà a casa e guida il benessere. Grazie per il suo consiglio, aspettiamo i consigli anche degli altri ascoltatori. Voglio stare da sola. Volevo sapere se stai bene. No, non sto per niente bene, ok? Sei soddisfatto? Io non sto bene. Smettila di guardarmi. Io non ti guardo. Non è vero che ti guardo. Tu non fai che guardarmi, non fai che osservarmi. E Finn ha dei progetti. E a me piace, Finn è perfetto per me. Io sto provando davvero a essere felice. Ma non posso respirare, non posso respirare se tu mi guardi in quel modo. Quindi smettila. Che cosa ci succede? Che cosa vi succede quando qualcuno posa lo sguardo su di voi? 800 24 00 24, in linea con noi, ve l'avevo già anticipato, c'è la professoressa Cristina Becchio, che è professora associata al Dipartimento di Psicologia all'Università degli Studi di Torino. Buongiorno. Buongiorno. Questa puntata dedicata allo sguardo, abbiamo il desiderio di capire come e perché la ricerca ha trovato intrigante i nostri sguardi, che cosa è andata a misurare, che cosa ha scoperto. Gli sguardi? Beh, una cosa, un aspetto interessante che è emerso è che, anche se non ne siamo sempre consapevoli, quando guardiamo un volto, la nostra attenzione, quindi il nostro sguardo, tende a focalizzarsi sulla regione degli occhi. E questo perché, come si dice, i modi di dire sono molto, no? Raccontano tante cose dei nostri occhi e ci portano a capire che, in effetti, guardando una persona, ma mi sembra che anche la ricerca l'abbia confermato, noi dal suo sguardo possiamo intuire quello che farà, anche quello che dirà. Sì, sicuramente, vale sia per l'azione, vale per la comunicazione. Per quello che riguarda l'azione, in realtà ci sono ricerche che sembrano suggerire, in parte sono del gruppo a cui appartengo, che sembrano suggerire che in determinati contesti osservare una persona, guardare un oggetto, da un punto di vista delle attivazioni cerebrali, non sia diverso rispetto a osservare quella stessa persona che afferra l'oggetto. Guardare un oggetto e prenderlo in qualche modo si equivalgono. Quando invece, dottoressa, professoressa, a essere osservati siamo noi, qualcosa cambia. Pensiamo nei banchi di scuola, quando intercettavamo lo sguardo del professore, in qualche modo noi cambiavamo, smettevamo di fare quello che stavamo facendo e cercavamo di avere almeno un comportamento irreprensibile o quasi. Perché lo sguardo ci condiziona e anche questo è stato misurato dalla ricerca. Sì, quello che è più sorprendente è che non solo ci condiziona lo sguardo di una persona presente davanti a noi, siamo condizionati anche semplicemente dall'immagine di due occhi, dalla fotografia di due occhi che ci guardano. E questo è stato dimostrato sia in ricerche di laboratorio, ma anche in un interessante esperimento sul campo che è stato fatto nell'Università di Newcastle. Quello che i ricercatori hanno fatto in questo caso è mettere la fotografia di due occhi sopra la macchinetta del caffè all'interno del dipartimento. All'interno del dipartimento ricercatori e studenti sono liberi di servirsi di caffè e sono invitati a mettere la somma corrispondente a quanto hanno consumato in una honesty box. In Italia non sono diffuse, è una cassetta dell'onestà. Sì, non sì. Chiediamoci perché. Però potremmo provare, magari saremmo, no? Beh, finirebbe come l'elemosina. Quello che in questo caso i ricercatori hanno visto è sostanzialmente che, alternando fotografie di occhi e fotografie di fiori sopra la macchina del caffè, si otteneva un risultato interessante, ovvero la cifra depositata a parità di consumazioni aumentava quando sopra la macchina del caffè era presente la foto di due occhi che guardavano. Allora non resta che procurarci una foto di uno sguardo e metterla in bella vista e lasciare che lavori, che insomma produca i suoi effetti. Professoressa, grazie per essere stata con noi, buona giornata. Mi saluti grazie. Torino, che è la mia città. Grazie, grazie, buona giornata. Lo sa che oggi... Lei dove la metterebbe la foto delle... Ma pensi se avessimo la foto del direttore di Equitalia che ci guarda, di Befera, forse saremmo tutti un po' diversi. Sì. Forse. Comunque adesso con lo sguardo volevo fare un commento, già che la professoressa ci ha dato qualche aiuto. Le persone con handicap possono in alcuni casi muovere delle macchine, possono muovere o addirittura scrivere al computer. Si stanno sviluppando moltissime tecnologie in questo senso per persone che hanno disabilità e quindi sono in difficoltà. Nei prossimi anni molte cose cambieranno da questo punto di vista. Mi vedo la sagoma del naso ovunque guardi. Come mai, Sabrina? Beh, ma penso che ci sia nata Sabrina col naso. Se ha questo problema, forse non deve andare dall'oculista, ma dallo psicologo, non vorrei dire. Ma... Allora una richiesta, mi scrive un ascoltatore a proposito di sguardi, vorrebbe gli sguardi di Barisoni e di Giannino. Proveremo, chiederemo ai nostri amici se si lasciano fotografare lo sguardo e lo postiamo su Facebook. Andiamo a Roma, c'è Simonetta che ci chiama, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione innanzitutto, vi ascolto tutte le mattine. Grazie Simonetta. Allora senta, io ho notato praticamente il mio sguardo è completamente cambiato, anche quando mi guardo da sola allo specchio, non vedo la profondità del mio occhio perché io lavoro molto da vicino tutti i santi giorni perché sono una ricamatrice, quindi ho già 2 gradi e mezzo da vicino e da lontano comincio a avere dei problemi a guardare. E l'altra cosa che volevo dire è che il trucco, il rimmel, il trucco che mi faccio molto leggero, non mi tiene più, cioè noto che comunque non mi regge, non so se è legato a questo fatto della stanchezza dell'occhio, mi piacerebbe un gradito consiglio. Allora, secondo me sul trucco il dottor Cialdone io su tutto dei trucchi. È no. Poco preparato. Sì, è vero. Mi viene questa idea, no? Però magari sa anche qualcosa sul trucco, ma... rispondendo alla nostra Simonetta, che gli occhi, come si dice, li usa ma li sforza anche. Li sforza parecchio. Io non so, non ci ha dato qualche dettaglio, ma una cosa mi viene in mente di suggerire: una bella luce focalizzata nel punto in cui ricama tutti i giorni, perché tanta luce aiuta a fare meno fatica, soprattutto cerchi di evitare, se è possibile, non bastano le luci al neon in grandi magazzini o in grandi fabbriche, adesso non so dove ricama, ma meglio, preferibili, luci focalizzate, alogene o le nuove LED. E quelle garantiscono quindi una focalizzazione, una luce migliore, concentrata, migliore contrasto. Per quanto riguarda il trucco? Per quanto riguarda il trucco, supponendo... Provi a dirmi la sua, perché... Mi dica. No, secondo me la nostra ascoltatrice ha bisogno solo di mettersi un occhiale perché lo vede un po' slavato, ma non credo che sia colpa del trucco, è che non mette più a fuoco bene. 800 24 00 24. Roberto da Roma, buongiorno. Buongiorno. Senta, ecco, io ho problemi di astigmatismo. E qualche mese fa ho cambiato le lenti. Sì. E vedo che invece di migliorare, cioè sono andato bene per qualche giorno, dopo ho cominciato a peggiorare e peggioro giorno dopo giorno. E mi chiedo se possono essere le lenti, se cosa possa essere. Roberto, quando lei dice peggiora, ma peggiora perché vede non vede bene o perché ha qualche segnale che... prima non c'era e quindi la insospettisce? Sì, il segnale è che con l'astigmatismo si vede doppio, no? Quindi diventa sempre più intensa questa sensazione. Roberto, no? Mi scusi, ma lei è sempre stato astigmatico o no? Sono, sì, almeno 10-15 anni, sì. Ma quanti anni ha, scusi? Adesso ne ho 65. Quindi il suo astigmatismo è cominciato a 40, 35-40? Esatto. Prima non era astigmatico? No, prima avevo una vista buonissima. Allora le consiglierei di fare un esame che si chiama topografia corneale, che è un esame che analizza, è un esame, una specie di fotografia, che analizza la conformazione della superficie dell'occhio e quindi le può dire se questo astigmatismo è una cosa... diciamo ferma, fissa o presumibilmente potrebbe variare. Un esame, dottor Cialdone, che lei consiglia a chi? In modo particolare. Beh, oggi la topografia è un esame che è diventato di routine perché ci permette di vedere, come dicevo, tante cose, è come una mappa vista dall'alto particolarmente alle persone, soprattutto colgo l'occasione per, da Roberto, che non è più giovanissimo, per invece focalizzare l'attenzione sui giovani, un giovane che diventa astigmatico e prima non lo era, è possibile che abbia un problema di patologia congenita che si chiama cheratocono e che oggi è facilmente trattabile e fermabile, sì, passatemi il termine, con un trattamento con degli ultravioletti. Ricordiamo che il segnale dell'astigmatismo è? Beh, l'astigmatismo non è facile da riconoscere, si vede sfocato. Se vedete sfocato e siete giovani, e prima non ce l'avevate. E prima non ce l'avevate, occhio. È un disturbo visivo che va controllato, approfondito. A proposito, certo, di disturbi visivi, a volte annunciano una fastidiosa compagnia, il mal di testa, la vista si annebbia, compaiono degli zigzag luminosi, scompare addirittura in alcuni casi una parte del campo visivo, è il mal di testa con aura. In linea con noi il professor Fabio Ferediani. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Direttore di neurologia e centro cefalea all'ospedale San Carlo di Milano. Professor Ferediani, il mal di testa a volte viene preannunciato da dei disturbi visivi. Esattamente. È una forma particolare di emicrania, si chiama emicrania con aura, e aura è proprio questa fase che precede, che è solitamente di tipo visivo, ma a volte può essere anche più complessa, di tipo motorio, può dare delle paresi transitorie, può dare dei formicolii. Diciamo che quello visivo è il più comune, più del 90% dei pazienti che soffrono di questa forma ha soltanto il disturbo visivo, che è un po' l'annuncio che sta per arrivare il mal di testa. Ecco, l'annuncio che sta arrivando al mal di testa, un annuncio che possiamo sfruttare a nostro vantaggio? Ma sicuramente sì. Innanzitutto bisogna sapere, tener conto che non sempre il disturbo visivo è poi seguito dal dolore, ma nei casi in cui invariabilmente è seguito dal dolore, questo ci consente di poter assumere in anticipo il farmaco che controllerà il dolore. Attenzione, non il farmaco che, come voi sottolineate spesso, non deve essere autoprescritto, perché sennò si cade un po' dalla padella alla brace, vero professore? Certo. Cioè l'autocura in alcune patologie come il mal di testa, in cui noi ci sentiamo assolutamente capaci di gestire la situazione, possono trasformarsi, sono un boomerang, arriva poi il mal di testa da farmaco. Quindi il dottor Cialdone voleva intervenire, forse sì, perché anche lui un po' di mal di testa con aura ogni tanto. Sì, no, talora. Talora. No, volevo che, fare una domanda o soprattutto una sollecitazione al professor Ferediani di rassicurare le persone che hanno questi fenomeni di scotoma scintillante o di aura, perché molti chiedono, ma queste cose qui alla lunga danneggeranno la mia vista? Certo, certo. Certo che sì o certo che no? No, certo che è importante fare questa precisazione, perché è una delle paure, uno dei timori che i pazienti hanno. Bisogna dire che per fortuna la tipologia di questo tipo di attacchi porta molto più frequentemente il paziente dal medico rispetto al mal di testa senza l'aura, perché l'aura è un fenomeno talmente particolare che sì, il paziente si spaventa e non rinuncia a sentire il medico. Questo che diceva il dottor Cialdone è fondamentale, perché l'aura, soprattutto la forma più comune, l'aura visiva, sì, con pochi attacchi all'anno, 3-4 episodi, che di solito è la media di questi fenomeni, non pregiudica né le capacità visive né tantomeno le facoltà mentali o l'invecchiamento. Molti mi chiedono, ma mi verrà l'Alzheimer, chissà che cosa succederà al mio cervello, io ho questi fenomeni strani. No, non succede assolutamente nulla, quello che è importante è riconoscerli e trattarli su consiglio medico. Giustamente. Professor Ferediani, siamo in chiusura, quindi rapidamente vorrei che lei desse alcuni consigli ai nostri ascoltatori che si stanno preparando al weekend, ma che spesso devono fare i conti proprio nel weekend con il mal di testa, che scoppia, arriva il sabato sera, se ne va poi alla domenica sera o al lunedì mattina, quando dobbiamo tornare in ufficio. Abbiamo poco tempo, pochissimo, 10 secondi proprio di due parole. Per questa iattura del fine settimana, Diciamo che questo tipo di attacco si verifica soprattutto in quei soggetti che hanno... Sì, ma mi dica due consigli, perché stiamo chiudendo. Non dormite? Modificare i ritmi, primo. Cercare di fare le stesse cose che si fanno durante la settimana, non tanto come lavoro, ma come ritmi, vale a dire svegliarsi alla stessa ora o magari dormire poco di più, mantenere lo stesso tipo di alimentazione, fare comunque del moto, non cambiare. Fate finta di niente, evitate di andare in ufficio. Grazie al professor Frediani e al dottor Scialdone. A lunedì.